Il nostro cane non mi riconosce più. Altri profumi, altre valigie da portare giù. Cerco le chiavi di casa, questa non è casa mia, più mia. I libri, quelli li ho portati via, anche l'ultimo sguardo, l'ultima fotografia, quella di nonna bambina che gioca con il cerchio in piazza, la piazza, amore, dimmelo tu, cosa? Cercare